sì. Come si dice? Personalizzata. Allora, c'è chi si personalizza al 46, al 48 e io il Jackie John. Sì, personalizzata, ti sta anche bene. E il migliore spremi. Aspetta. Io ce l'ho qua. No. Sembra il 9. Ecco qua. Mandate. Capa. Hai visto che ti ho mandato un po' di gente? Lo sapevi? Tu mica si presentano quello qui. Sì, a te di già lavoriamo. Se ne vede sempre gente nuova. Ah, sai cosa? Mi piace molto il servizio, mi piace a me. Ma io l'ho detto anche un paio di volte, hai visto che ho chiamato anche al circolo. Sì, è la loca anche. Qua in corso Vittorio Emanuele abbiamo chiamato un paio di volte. Alla Costanzo. Ah. Da Costantino. Positivo. E ho detto io, scusa, ma perché dobbiamo chiamare gente che... Cioè, perché non chiamiamo a loro? Che almeno, cavolo, te la portano subito e tutto. Gappa, gappa, va bene. Luca lì, cosa stai facendo? Quindi sto recuperando dei chips per giocare a poker, ho ridato una sicurosa qua e mi voglio giocare. Quando vado in pegni, no. A proposito, aspetta un attimino che devo mandare un messaggio, che devo cambiare una batteria, un S8, aspetta. Io sto portando l'acquisizione, ma no, non mi do la tracciabilità. Gappa, gappa, allora. Ehi, Luca, ti saluta Sara. Lo sentita, ciao Sara. Andiamo, andiamo, che è? Cosa? Oggi è salita appena appena la glicemia, mamma mia, la prendi rovo. Purtroppo bisogna lasciare regolata con i carboidrati, pasta, pane, queste cose. Io di mangiare mele, non solo mele, però di evitare la roba dolce, dai, sale la glicemia. Capa, lo so, purtroppo è così. Stavo pensando una cosa, Lupo, già ti faccio sapere. Ok. Cioè? No, già ti faccio sapere al telefono, poi. A dire, perché cosa? Vai con la fiesta. Ok. Allora, ma non ci vuole bigherde, non ci vuole bigherde. Cosa sa? Che le fa buone le pizze. Ha detto Sara, lo sapevi che le fate buone le pizze, ha detto. Madonna, stai innescando di brutto. Ho detto l'antenna dove ce l'hai? Sul tetto. Ah, ma abiti vicino alla tariffa? Quasi. Più vicino a Gianni Lubrofetta, non so se l'hai mai sentito. Ah, non so. Capa. Infatti lui è il più forte di tutti, mi arriva a 9,60. Sei uscito? Ho detto, pensa che Luca è qua vicino a me, non siamo molto lontani, siamo per lo stesso segnale. Lo so. E quando l'altra volta va via un roccio di cubo, va via. Adesso non più, c'ho un'antenna sul tetto. Quando mi dà la croce, non arriva a venire così forte. Già, lo so. Sì, comunque nel piccolo già arrivavo. Non c'avevo l'antenna sul tetto, avevo quella di una tragga a bisturia. Gappa gappa. Praticamente è zona corso B, come? Sì, è auditivo. Stavo cercando l'accendino, non so come mi faccio pure. Allora, riprendilo, fatti il bianco per me. Gappa gappa. Ce l'ho già... piazzata è un anno e mezzo, penso, che già piazzata, da quando ci siamo qua. Vabbè, è normale che sia andata sul tetto, come se io mettevo la boomerang sul tetto, miglioravo un bel, purtroppo lì, orrende. Capa, però quella boomerang che ti ho dato è forte, mi. Ma la posso lamentare, va bene. Allora, un anno e tre mesi esattamente piazzata, poi che stiamo facendo il quarto mese pure, capito, sul tetto qua. La mamma, ma tu ma ce l'avevo, insomma c'era 10 anni, 11 anni, bozzo, una cosa del genere. Ah, che non è la gatta? A me non si intendi, mi ha chiamato un babbo, vieni a prendere l'antenna, che è venuto te che sta a smontarla, ma allora è più da lui che ha fatto che altro. Infatti la sostava da sistemando, ma la sto facendo con calma. No, lo potevi anche denunciare, mi ha detto che te l'ha data l'autorizzazione. No, poi gli ha chiamato il tecnico per smontarla, però questo tecnico ha visto che c'era lucido e quindi invece di smontarla come l'ha fatto l'anno, capito? Ha potuto indagare come c'era. Beh, il piano di sotto non voleva più su Rosa, che dice che lei è la padrona dell'aria del tetto, ma perché non ce l'ho io, se ce l'ho stato io, se la rimanda da Rosa un dì, che non si tocca niente, che l'antenna rimane lì. Ma appunto, ma poi è vera questa storia, non è vera? Certo che è vera, questo del piano di giù c'ha due appartamenti in affitto, lei dice che lei è padrona del sottotetto, perché l'aria è edificabile. Abbiamo capito che è edificabile, a parte che lo si diceva verbalmente, non ci ho mai dimostrato nessuna carta. Dunque, ha detto che non potevamo salire sul tetto a piazzare l'antenna, capito? In Caraguaccia. Quindi babbo, vuole evitare queste cercature, io non ci abitavo più già a tempo. Ha chiamato un tecnico, ha pagato 50 euro e l'ha tutta danneggiata. Io piano piano sto anche recuperando e poi vedrò cosa farne. Ah, ho capito. Ma un imbecille però, cavolo. Comunque metterli tutto il grasso in giro nella prossima che mette, poi lei gli ha detto lei me lo dimostri che è la padrona poi non ti può proibire, non ti potevo neanche proibire di metterti l'antenna sul tetto. Guarda la patina. Capa, a me aveva voluto, l'aveva cagliosso. Ate, Luca, ci sei? No, sempre qua, aspetta un attimino che mia moglie di tiglia. Allora ne fratello. E poi come è andata a finire con quelli cuori, trovate gli anni. Ma secondo me si è appurato lo zio. Ah, secondo me, poco è l'offio questo, cazzo, mamma mia, qua. È un bel invadente, è un bel invadente. Cazzo, tu cazzo il telefono se per riprendere, non riprendere, tu vieni di fuori di donna, guarda di grido, non vieni di fuori, guarda dai. Dice che l'ha trovato, ha diventato una cosa, e dice che ha saputo chi era, poi. Ah, no, l'ho ritrovato. Dice che ha saputo chi è, ma me è una ingazzata. Dice che si è afferrato, boh. Ah, sì, sì. Ragazzi, con un ciaffo, gatto, mi fa di voce un giro. Cazzo, con un ciaffo, belli di voce. Cazzo, non mi fa niente. Secondo me se fai il video, lo punta sui culi, poi vai fuori se li guardo. Ho visto lo sgamato io. Già può essere, già. Un mare mezzo. Lo sai cos'è? Che bisogna stare attenti con quella persona lì, perché è una persona che ti la può mettere lì dietro. Raga, a me! A tutti, cioè può dire una cosa ma un'altra, devi stare io sto molto attento con lui. Ah, chi mi dice da culo, cosa cazzo va? Aggiungi la culivacchi. Appunto, ma manca a me, era esagerente l'altra volta, l'ho fatto per Costantino, se no l'aveva abbigliato a ciaffi, per il carattere che ho io, l'aveva stato di naso, l'avrei preso a schiaffi. Questo microfono, credimi lui, la volta che mi è venuto a rompermi le scatole, che mi stavano rompendo le scatole, l'ho fatto per lui, l'ho fatto per lui e per la mamma, se non l'abbia già cuto. E questo com'è c'è il microfono? Tu? Questo è l'originale su. Buono. Kappa. Poi c'ho anche un EP16. No, già è buono già. Il microfono intacca, che lo devo. Domani lo provo e li trovo le condizioni. Kappa! Oia. Senti qua, cammino. Come vecchi tempi, che Samantha ma si chi chiama? Eh sì, eh. Adesso vediamo questa che mi sta arrivando se funziona bene. Qua già sono una posizione buona, ma penso qualche cosa la guadagnerò. A chi dove andendo chi sta? Andendo, ma un attimino di macchina. Oh, adesso facciamo scaldare la valvoletta. Scappa. No, vabbè, questa non è un attimino di macchina, questa è manna, vabbè. Quando la giù piazzata non mi trisciava in occhio, ho dovuto piazzarla tra il testo e cosa. Eia, no, vabbè, io qua c'ho un ferrato e dopo 10 mesi. Siamo capo di antenni, lui. Già lo so. Te ne passa una, basta che funzioni bene. Già pompa. A pompa, a pompa. Lucarie, quanto ti arriva, Bobolino? Ehi, che mi ha messo sul segnale? Capa, e non sto usando tanta potenza, eh. Prova a fare un passaggio. Tre, prova. Io metto, posa, tutte e due alle 9, vai, fa un passaggio in tu. Uno, tre, prova. Vai, Savi. 2, 3, 4, 5, 6. No, Savi è più forte. Così poco, ma sei più alto tu di segnale. Vabbè, è lì al monte. Però, se parlate assieme non si capisce un cavolo. Parrocchialo. O devo accendere e torna Gigi. Gigi d'Alessio. Con quello fa la bua. Chi è, prete, chi è? Meno va giù nuda. Io non capo se vince, guaracchino. Ma voi vi bruva, arrivo subito. Attacca la lavatrice, attacca la lavatrice. Ma dove vinca, attacca, cosa su te, sapete? 2 kW sono. Allora, fini fini. Così ti vedi lo scheletro. Attacca la tela. Io perché... Questo ormai lo venderò perché è bello, bello, no? Mi piace un sacco, però mi voglio, come si dice, Gianni c'ha i coperchi nuovi, adesso me lo corteggio se me li vende. Cos'è? Se me li vende. E chi? Gianni, doppio rum. Coperchi? Via, coperchi, sì. Una padina viola gliel'ho messa io, c'è blu. Ma perché ce li hai coperti? Sì, ho preso un 3009 a pizza, va preso. Infatti mi ha fatto lo smitter per il Typhoon che c'è giù. Quella di... la 25, va pizza. Sarà che bello. Adesso voglio corteggiare se mi vedete i coperchi. Cazzo. Ma Claudio, ma che comandazione così era da 30 kg? Ah, come si è fatto un ratti? E tu devi andare un pezzo di malettone. A 30 kg era un malettone. Addirittura. Cai. Cappa. Ma tu sei liscio, sape? Dove? Tu sei liscio, sei. No, ci sono agganciato. Arrivo dritto al cuore. Comunque quasi 9.30 agganciato. Cappa Rogero. Sei 9.20, normale 9.30 agganciato. Quando facendo quella bestia è un'altra storia. Gare. Che fede, salve. Quanto sta ancora la piccola? Ma la piccola? 32 anni. Dai, quanto tempo la piccola? Due anni. La piccola. Lì ha 8 anni. Che ha parlato adesso? È Naomi, no? Perché c'ha 8 anni. Ciao Naomi, come stai? E poi di là lì quasi. No, Didi, ti ha chiesto come stai. Bene. Ma sai chi sono io, no? Insomma, non se ne ricorda più di me, salve. Se ti vede già ti riconosce, ma adesso così non capisce. Poi l'avevo vista anche io, l'avevo vista. Chi è? Che casino, gli armani. Cappa. Luia. Come te lo dicendo, lui, chi sono a me? Mi sta un po' sui zibilemi, sta, tutti zì, Costantino che lo vuole eliminare, vuole trovare una scusa. Non mi invadente, grazie, per carità. Con quello, non lo so. Chi ti rimane a vedere il cliente? Dopo dico una cosa al telefonino, non hai fatto una caroniata, gli hanno fatto. A chi? A lui. Costantino. Eia, qualche bastardo, Di tipo? Aspetta che te lo dico. Aveva un'infurugiata. è sordo muto, non si sente un ronzio, nulla. Poi correva, ne ho detto. Oh, c'ho lo squelch. Che squelch? Io vedo il correva, è muto. Ah, vabbè, poi sentirei. Ma c'ho lo squelch. Ma lo smitter, ce l'hai giù, lago o ce l'hai qua? No, è giù, non è correva. Due, qua è due, no, poca roba. No, qua sono dovuto, si sta minuta. Vabbè. Per carità, scusa, vabbè, mica se paga la RAI, cioè, paga la tassa della TV, mica si mettono la multa così. No, tu devi sapere che per un locale pubblico devi pagare la SIAE. Non è così, no. Yes, la media buona, sì. Comunque, tu, se venerdì se vuoi salire al monte, lì al circolo da Mirko ci sono le Santa Fe. Ma dal padre di Valeria? No, no, più su, da Mirko. C'ho un programma, c'ho, capito? Sicuramente sì. Tanto abbiamo fatto sapere a mettersi dopo, da. Siamo un po' lì e poi vai, vediamo uno strappo noi, dai. Ma io stavo pensando dopo di quello hai altra cosa meglio. Ehi. Che te che è? Se sapevo che ci vuole fare un salto per essere al lavoro. E a voi Rume. E la chiedo. Che peccato. Non fa un salto per essere al lavoro da Mirko. Ma vado. Vennari. E va, ci vuole da entrare da Mirko. Perché? Va. A portare il capodanno. Il capodanno, cosa è successo per te? Avevamo organizzato, mangiato in fase. Ma voi dovete prendere quella vicina, pirate, però io già sei tutto, non faccio più nulla. Ci siamo andati. Ho capito. E vabbè. Capodanno così, poi va. Adesso vediamo, la storia è sicura in campagna da mamma e Marina. Almeno è Natale, poi Capodanno fai batti così. Capodanno lo dovremmo organizzare noi. Ne stavamo già parlando, a Capodanno su che muvoce. Si salvi chi può. Cosa si tossa la cara, il tuo viso assomiglia a cacca che non sfondo. Ho capito da voi. Non lo so, no, perché ce l'aveva con Care Maratto. No. Oh no, chi ce l'aveva? Con chi ce l'aveva? Non l'ho visto. Ah, con una persona ce l'aveva. Ah, infatti che c'è vicino, Alessandro, per carità. Sì, leggiamo, Care Maratto, leggiamo. Carità, c'ho questo modo di fare, di rispondere. Cazzo, non so come mi conduio, mi. Non gli ho detto niente, la prossima volta glielo dico. Voi dovete venire un vicino a voi. Ragazzo, mi mai cazzo, vuoi fare un film, mi mai. Carità, ragazzo, che c'è, devi fare quella coppa. La cosa, ragazzo, due sconvoltini, so. Infatti. No, adesso vediamo, va. Fa un qualcosa di diverso, perché sabato me la voglio prendere diversamente. Venerdì vado da lui e poi sabato per i cavoli miei. E noi facciamo così, venerdì da una parte e sabato dall'altra, giusto per staccare un po'. Voglio fare così, perché sennò se fa amante Sirogu non andava. E infatti noi venerdì siamo da Mirko, e sabato andiamo di là. Sabato, secondo come mi sale, mi sarebbe bene da qualche altra parte, capito? Possiamo uscire pure dalla locca. È quello che stavo pensando. Giusto per staccare un po', dai. Ogni tanto. Dice che c'è gente in gamba adesso, boh. No, Maurizio non ti manda via se ti comporti male. No, mi ha detto che c'è gente in gamba in quel locale adesso. Ma te l'ho detto che Maurizio se ti comporti male ti manda via. Ritrovo. Già sono un giorno che non ci vado. Ritrovo. Eia, capaggiato. Sono da tanto tempo che non vado al ritrovo. Capo. Beh, io chiudo le trasmissioni. Ciao, salve, buonanotte. Capo, ciao, salve, buonanotte, già sentiamo. Andiamo. Buonanotte. Stavo pensando. Bravo. Luca, ma tu che li conosci, non ci sei mai entrato da certe notti? Sì, non mi piace solo. Ed è merda? No, non mi piace, forse. Non mi piace, eppure piace, vabbè, di gesto. A gusti, poi va bene, cioè non puoi andare in un locale che ti paga un peruccio di 2,50 euro, ma che c'è gente. Ma davvero? Ma, cioè, 4 peroncini di 10 euro. Allora per la manna non verrà? No. Allora, in nomination un bongo. Infatti. Ma mettiamo in nomination, Luca. Allora. In nomination. Che peghette. Ma volevo andare, dopo volevo andare da Maurizio un po' per vedere. Si può anche andare, non c'è problema. Già sono un giorno che non entro in quel locale. Ma ci sei mai andato? Era 4 volte, poi non ci sono andato più. Kappa. Sono andato anche così, cioè, prima di avere Maurizio. Capito. Assurdo, ma questo cane ha dato un colpo, non so, qualcosa ti è partito questo ragazzo. Vabbè, dai, se tutto va bene facciamo così come ti ho detto, capito? Positivo. A che te ne sei andato domenica? Cosa? A che ora te ne sei andato domenica? Sabato. E domenica è andato, domenica mangiano, no? Ma tutto l'aria di mangiano. Ti senti? Vado di quasi forruggia la canna, a risette, no, cioè già, guarda, certo, ma che mai? Ma ti hai portato via tutto, le luci, tutto? Tutto, mi sono occupato pure a aiutare. Ma non puoi da strumenti così gratis, ma stai scherzando. Mi hai fatto da che cosa? Quindi un tanto e più da bere. Non ti preoccupare che già ce l'ho fatto biondo un po'. Già mi sono imbattinato la faccia sua. Vabbè, ma se ti facciano, se lui si faccia niente, devi pagare tu. Ha ragione. Ma io gliel'ho detto l'altro giorno. Non funziona così. Ma se bravo, dopo una... Io non l'avevo fatto. Se ti vuoi, mi paghi l'affitto che ti do. Ha ragione. Ma è tipo su da torcio, no? Vabbè, il capolano lo devo fare io. Quella è una cosa, una mia volontà è diverso. È una mia volontà. Però anche mi ha dato un po' fastidio alcune cose, ma l'ho lasciato perdere. Perché mi date un po' di fastidio, mi date. Beh, certo. Adesso vediamo cosa fare. Lui ragazzo, il tuo casino. E la poi, cioè alla fine stai lì, bevi, mangi, e poi ti picca sul bisogno. Sì. Però sono troppo fatte male le cose, no? Cioè io non l'avrei mai fatto. certe cazzate così come le fa lui. No, non ha il personale ci vuole per fare certe feste. Cazzo, meno male che sono stato attento io, gente che vuole andare da Rovacco, ma dove siamo? Ero incazzato me. Chi era incazzato? Io ero incazzato nero perché non si può organizzare cose così. No, veramente, no. Non si possono fare cose così. Ma mi ha giuito, mica voglio i soldi, mi. Che so che dobbiamo fare fuori, voglio ridinarmi. Se no tu non ne fai di cose. C'è la team Mario. Sa che cosa non la paghi? Quando non inchino la paghi la cosa. Siamo con parecchio gli strumenti, i sughi vivo, la cosa, ma no, mi penso brutto. Mica sono cazzardi, se dobbiamo fare roba grossa, io voglio i soldi, cazzo. Per pagare il coso, lo leggio. Io voglio, proprio per essere a lui gli faccio un buon prezzo, però voglio ridinare, cazzo, per fare quella serata devo fare fuori, voglio i soldi. Ma fuori dove? All'aperto, in Porta Sant'Antonio. E quando? Nel 2022. Sì, ma è estate. Capo, d'estate devo fare la bagassa di la radio, brutto froscia, capito? Ehi, se me la fa. C'è un amico che conosco, no? E li affitti, dice di vuole le luci, mi ha detto, ma serata, già li guadagna Elina, la di Grillo, li guadagna lì. No, li guadagna Elina. Ora va, sa cosa chiamo quella baghi? Non avevo prima una vino, quella baghi, mica delle rigarette. E allora quella cazzo di dai la cosa così, allora io non lo farei, ma non caballa. Si può fare una volta, mi fa un piacere, ci vado a comprare un suo, mi vuoi rigare, ma no, che fare serate per gli altri. Tu vi guadagni e tu nulla, ma va. Ma infatti gli ho detto, l'ultima volta gli ho detto, guarda cazzo, ma tu devi guardare di là, tu cosa vuoi fare questa serata? Ah, ci vuole questo più il compenso di quello che è mio. Cioè, cazzo, io gli ho detto, l'ultima volta gli ho detto. Beh, come la fai? Aspetta un attimo Luca che cambio radio, 2 secondi. Hola, si sente? Andava in vita. E quella piccolina con la metà 100, guarda, quella di Memita. Ah, cosa? L'Intec 550, te lo conosci. E quanto ho sistemato io, cioè di più. Questa è. Sta qua, l'Intec. Adesso mi avvicino appena qua, a me non tira il microfono. Capitolo, così è, l'ultima volta però glielo ho detto, poi si è offeso, si è accorto dentro di sé, a me non me la butti nulla, cioè io sono buono con tutti, però non te ne devi neanche approfittare, ma l'ultima volta tutta gratis, io da me birra cosa, io, cioè, ma non mi dici che vuoi ridinarlo, aiuto. Carezza. No, la verità non mi ha detto niente, ha detto prendi quello che devi prendere e basta. Ma alla fine ci prendi sempre tu. Ma se ti va da Elina, regala i canapi, capito? Già lo so già. Ma è troppo mal organizzato. Io ho fatto anche la battuta, gli ho fatto, ma se vuoi, gli ho detto che gliel'ho fatto capire che se vuole glielo, cioè il circolo glielo potevo tenere un po' io, cioè perché tanto mi sarei anche ritirato dal lavoro perché io non ho più gana, dico la verità, cazzo il lavoro mi crebbe andare a China, a me, cioè sto già cominciando con l'età e non voglio fare la fine dei miei colleghi, cioè se lui ha fatto un'altra persona, ma vabbè, come io ti do tot, ci vieni con me, me lo segui tu, gli avrei aperto anche la mattina, avrei fatto anche per i soci tipo colazione, abbiamo buttato riparti, le cose, l'ha perseguito io un po'. E io non ti fida, lascia perdere. Vai, intendi, sì, lo so, è pesante. Se andrò a farlo maniare allora. Osturi, garrendi. Tanto, uscire. Ma vuole, è pesante lo stesso. Ma cavolo, se avrebbe avuto un altro cervello, aperto, cosa vuoi fare? Cioè, visto che ti ho fatto tante cose. Gliel'avrei tenuto io, capito? Cioè, aveva pensato che tanto c'era, poi c'era stato lui. Abbiamo fatto a ciampo, abbiamo fatto un bel di dinà perché la gente lo sapeva. Avevamo portato le pasta, la colazione e tutto quanto. Cioè, avrei aperto io la mattina, capito? Ehi, ehi, questi lavori sono pesanti, poi lì, vabbè, in cantiere polvere. E via, ciampo. Casino, tutti i lavori sono pesanti, faccio io, dai, i miei lavori che faccio io non sono pesanti, sei abusato, tranquillo e sereno, mentalmente ti stanchi, quello sì. Cappa. Zero di stazionaria, con poca potenza dove vuoi andare. Che frega, capito, tanto così, Beh, tanto mi sa che Sanremo ci ho detto un quarto, come mi sono Sanremo di Rocci, dai, ci organizziamo comunque, ci vediamo, poi se vuoi salire sabato, ma venerdì, infatti inizia alle 9, e si sta bene lì. Venerdì, no, volevo fare il sabato io, perché venerdì ho poca disponibilità, capito? E voi come fui Anto? Se vuoi salire noi siamo lì. Sto per cambiare un po', dai. Andiamo, dai, ci sentiamo Anto. Ciao anche a Sara, buonanotte, domani Anto, ciao. Mi sono drumeno. Ciao, buonanotte. Comunque venerdì no, perché ho poca disponibilità, la verità. Ti dico. Non è che mi posso spostare tanto. Sabato sì, sabato va bene. Comunque in futuro qualche discorso del genere, se ho soldi me lo prendo a conto mio il circolo, voglio aprirmi un qualcosa così, Lupe, perché sinceramente mi sono straccato un bel, capito? Se non faccio questo centro con uno me lo per conto mio. Ok, buonanotte, poi vedrai, dai. Ciao, buonanotte. Ciao.